Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il 2015 è stato un anno difficile per la sicurezza stradale. I dati da poco pubblicati nel rapporto ACI Istat rivelano infatti una crescita della mortalità sulle strade per la prima volta dopo 15 anni. A fronte di una diminuzione progressiva rispetto al 2010, il 2015 ha fatto registrare 38 vittime in più rispetto al 2014. Aumentate anche le infrazioni, soprattutto quelle generate da distrazione. In controtendenza, invece, le cifre rese note dalla Commissione per la sicurezza stradale nell'autotrasporto, secondo la quale nel primo semestre del 2016 gli incidenti con esito mortale in cui sono coinvolti mezzi pesanti sulle autostrade italiane sono diminuiti del 3%. Uno degli strumenti di prevenzione è quello dei controlli su strada. Per quel che riguarda l'autotrasporto, nel 2015 il numero dei mezzi pesanti ispezionati segna un deciso aumento. Più di 330.000 i veicoli sottoposti a verifica. Cresciuti soprattutto i controlli dei mezzi non italiani. Ma sul tema della sicurezza, visti anche i recenti episodi di terrorismo internazionale, bisogna fare ancora di più. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Il tema della sicurezza è un tema centrale per il mondo dei trasporti, sicurezza che si può declinare in tante forme, da quella a tutela degli autotrasportatori contro i furti e le rapine, ad esempio a danno dei tir, alla sicurezza stradale, alla sicurezza dei carichi, a tutela in questo caso degli altri utenti della strada, ma in molti casi degli stessi cittadini. Ne parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Giuseppe Bisogno, direttore del servizio di polizia stradale della Polizia di Stato. Dottor Bisogno, innanzitutto cominciamo dalla sicurezza stradale. Qualche giorno fa sono stati presentati dei nuovi dati ACI Istat. Come sta andando sulle strade italiane? Già con i soli dati di Polizia e Carabinieri l'anno 2015 l'avevamo chiuso già con un segno più vicino alle vite che si perdono sulle nostre strade. Adesso ne abbiamo avuto la conferma perché l'anno 2015 ce l'ha dato l'Istat con far registrare più 38 vittime anche un bel numero di feriti gravi, quasi 16.000. Certo, ecco, poi cercheremo di capire insieme con lei anche le cause di questa recrudescenza di questo fenomeno, ma anche qual è l'impatto del mondo dell'autotrasporto su questo fenomeno. Vi presento anche il secondo ospite, il professor Rodolfo De Dominicis, presidente di WIRNET. C'è un altro tema che è comunque legato a quello della sicurezza, la sicurezza dei carichi. Purtroppo abbiamo visto come degli episodi di terrorismo abbiano avuto come protagonisti dei semi rimorchi, dei container, addirittura dei camion veri e propri. Cosa si potrebbe fare per garantire sempre di più la sicurezza di questi trasporti utilizzando tecnologie esistenti, tra l'altro? Dunque, la tecnologia esistente è esattamente quella che abbiamo messo in piedi con la piattaforma logistica nazionale digitale, che è uno strumento messo a punto per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Uno strumento, nel senso un sistema informatico e telematico di tipo nazionale, cioè perché serve praticamente a tracciare, a gestire e a verificare i flussi di traffico stradale e anche l'intermodalità, cioè come questi flussi poi entrando in un nodo vanno a cambiare modalità. Rispetto alla sicurezza, l'intervento che viene fatto con la piattaforma logistica nazionale è in questo momento essenzialmente legato al safety, nel senso che noi seguiamo le merci pericolose, evitiamo che queste merci pericolose vadano probabilisticamente più vicine ad obiettivi sensibili, nel senso che se un carico deve passare vicino ad una scuola, noi lo gestiamo in maniera tale che vicino alla scuola non passi, in maniera tale che il rischio complessivo possa diminuire. In relazione invece alla questione della sicurezza, nel senso di security, esistono in corso delle sperimentazioni per le città, per le grandi città, che creando un perimetro e creando dei varchi di vettori che portano carichi pericolosi, ma direi in generale non solo pericolosi, debbano passare all'interno di questi varchi e poi essere riconosciuti e poi tracciati e condizionati nel loro percorso fino alla destinazione finale. Quindi praticamente possiamo conoscere per questi carichi sempre la posizione all'interno di una città. Ritorniamo un attimo al tema dei dati. Purtroppo dal 2001 non si registrava un incremento delle vittime della strada, l'abbiamo registrato quest'anno con questi dati. Quali le cause secondo lei? Chiaramente dobbiamo provare ad individuare ciò che è nuovo nel vulnus alla sicurezza stradale. E siccome la velocità ed altre cose c'era anche prima, noi riteniamo che sia la distrazione e tra le cause di distrazione l'uso di telefonini, tablet e chi più ne ha più ne metta. È su questo che, a secondo ovviamente dei profili di competenze e di responsabilità, che bisogna approcciare il nuovo, secondo me. Certo. De Dominicis, quindi una tecnologia buona e una tecnologia tra virgolette cattiva, ma ovviamente tutto dipende da come si utilizza la tecnologia. A questo proposito, l'utilizzo di queste tecnologie per il controllo delle merci pericolose può essere in qualche modo esteso anche a tutte le tipologie di merci e quindi possiamo in teoria sapere in ogni momento un qualunque carico dove si trova all'interno di una città? Quando andiamo a regolare e a determinare un perimetro prestabilito, in quel perimetro prestabilito riusciamo a sapere qualunque cosa. Faccio un esempio, quello che è successo a Nizza, quindi un esempio molto purtroppo doloroso, non sarebbe mai accaduto, oppure sarebbe accaduto con probabilità molto più bassa, perché di questo dobbiamo parlare, se avendo un sistema come quello gestito dalla piattaforma nazionale con un perimetro virtuale come quello che si sta sperimentando in alcune città italiane, il conduttore del veicolo sarebbe stato necessitato a farsi identificare o a far identificare se stesso il carico al perimetro d'ingresso. Insomma, la sostanza è, per lavorare sia per la safety che per la security, i carichi sia pericolosi che non pericolosi devono essere identificati al perimetro, ma questo non comprime il business, perché l'identificazione è istantanea con i sistemi tecnologici, altrimenti avremmo la fila del camion, certo, diciamo al gate, da lì avremo 10 km di fila per entrare nella città. Quindi utilizziamo la tecnologia per migliorare sempre di più il controllo dei veicoli. A proposito di controllo dei veicoli, c'è un altro tema che riguarda molto da vicino questo settore e ovviamente anche la sicurezza, che è quello dei furti e delle rapine. È stato costituito un osservatorio in cui ci sono molti organismi, tra cui anche l'albo degli autotrasportatori, oltre ovviamente al Ministero dell'Interno e alla Polizia Stradale. Qual è l'attività che sta svolgendo la Polizia Stradale su questo fronte e qual è l'andamento dei dati rispetto a questo fenomeno? Adesso l'osservatorio sta intanto monitorando attentamente il fenomeno. Per quello che conosciamo noi, esso non ha subito per fortuna delle variazioni peggiorative, anzi per alcuni crimini anche in diminuzione, però restano dei reati che comportano grossi rischi anche appunto per la sicurezza degli autotrasportatori, oltre che evidentemente danni notevoli all'economia legale. De Dominicis, un'ultima battuta proprio legata a questo fenomeno: la piattaforma logistica nazionale, i sistemi di tracciamento possono in qualche modo intervenire anche contro questo fenomeno? Sì, la piattaforma nazionale può assolutamente intervenire anche su questo fenomeno. Io volevo fare una battuta, se mi consente, dottore. Non esiste tecnologia che da sola può risolvere un problema grande come quello che abbiamo davanti. Esiste